Le Marche online. Viaggio alla scoperta delle Marche, navigando su internet. Un programma a cura di Luca Lorenzetti. Buona giornata da Luca Lorenzetti in studio per questa ottava puntata delle Marche online. Bene, abbiamo in collegamento telefonico con noi questo pomeriggio Margherita Gargiulo della IIK, l'Istituto per la Comunicazione Internazionale di Ancona, che ha inaugurato tra l'altro da poco una nuova sede presso nelle vicinanze del porto di Ancona. Siamo venuti, signora Gargiulo, al corrente del fatto che avete in cantiere, dal punto di vista della formazione, voi vi occupate prevalentemente di formazione, sì. Un esperimento interessante e che credo innovativo che riguarda l'informatica e le lingue straniere. Esatto. Ce ne vuole parlare? Dunque sì, noi siamo partiti dal presupposto dell'importanza che la rete ha ormai raggiunto in ogni settore della formazione, per cui abbiamo pensato di sviluppare un corso interdisciplinare di informatica e di lingua straniera, nella fattispecie l'inglese. E questo perché si sta parlando tanto dell'utilizzo della rete e di tutte le possibilità che essa offre, ma siamo perfettamente al corrente che per navigare in rete bisogna avere un punto di riferimento fondamentale, una chiave d'accesso fondamentale, che è la lingua inglese. Ecco allora perché la lingua inglese, ma anche perché l'informatica, perché poi comunque bisogna sapere impiegare una macchina, un calcolatore, anche certo, nelle sue funzioni più elementari. Noi abbiamo pensato che questo corso interdisciplinare potrebbe avere un monte ore variabile dalle 80 alle 100 ore. Lo abbiamo pensato in collaborazione con una ditta di Ancona, la .com, che si occupa proprio di servizi internet per privati e per aziende e che ha, anche questa ditta, un'esperienza nel campo della formazione. Quindi insomma, sì, questo è fondamentale. E lo scopo di questo corso è permettere appunto la navigazione in rete e quindi permettere di accedere a delle prestigiose banche dati, quindi di poter leggere, di poter orientarsi in questa grande nuova biblioteca che è la rete, quindi le più svariate fonti, e con lo strumento appunto della lingua inglese. Vede, per noi la rete è fondamentale, adesso al di là di questo corso, in ogni corso di formazione che portiamo avanti. Ecco, esatto, infatti proprio volevo proprio chiedere in che cosa pensa che la rete, che internet possa essere, sì, più utile per chi conosce o non conosce la lingua straniera. Ma dunque io le faccio subito un esempio. Noi dalla rete, ad esempio, prendiamo materiali didattici. Benissimo. Cioè dei materiali che utilizziamo nel corso delle nostre lezioni. Mm-hmm. Quindi è importante proprio da un punto di vista didattico, perché è un materiale mirato, perché, come le dicevo prima, è una biblioteca universale, certo, dove lei può trovare tipologie testuali di tutti i tipi, certo, no? E di qualsiasi materia, di qualsiasi argomento. Lasci il vostro perdere che poi per noi la rete è fondamentale per tutto il lavoro, sì, anche quello di ufficio, certo, e quindi l'emailing, ecco, qualsiasi, il marketing del resto, perché con le nostre pagine web noi facciamo anche pubblicità e facciamo conoscere la nostra scuola a chi già sa navigare in rete. Benissimo. Senta, per quanto invece riguarda il pubblico che potenzialmente, eventualmente, che ci sta ascoltando, può essere interessato a avere ulteriori informazioni, sì, su questo nuovo esperimento di formazione, che ricordiamo è rivolto ai privati, ma in misura maggiore credo alle aziende. Sì, certo. A che tipo, certo, c'è un numero telefonico? Che sì, loro, chiunque fosse interessato, sì, può sempre contattarci presso il nostro istituto, allora al numero 071 20 66 10. Benissimo, chiedendo di? E di chiunque, perché benissimo, insomma, io sono la responsabile dei corsi d'inglese, però questi sono